è appena avvenuta a Torre Maura, si parla di un'occupazione di donne, casa, mi sono persa il comunicato, casa libera tutte. Allora invitiamo le compagne, le compagne che ci stanno ascoltando a recarsi lì, via Viale dei Tordi 38 a Torre Maura. Ci potete arrivare o col trenino Roma Pantano direzione Giardinetti, oppure con la 105 alla fermata Torre Maura. Ciao, allora ritorniamo in diretta con te. Ciao. Ciao. Allora, nel senso, un'occupazione di donne, raccontaci un po' com'è nata questa volontà, questa voglia di occupare non soltanto, insomma, a scopo abitativo, ma anche a scopo, diciamo così, ricreativo e di socialità, un posto di donne. Sì, anche per, diciamo, dire un po' alla città. Anche un po' per dire alla città la difficoltà che si ha in questo momento di uno spazio di donne, visto che anche quelli che si hanno praticamente uno è sotto sgombero e l'altro ha degli affitti allucinanti. Esatto, infatti diciamo che sulla scia di un bisogno poi sostanzialmente abitativo, ovviamente si sono intrecciate anche il bisogno, come dicevi tu, di avere dei luoghi di socialità, delle sedi dove potersi incontrare, eccetera. Quindi insomma è nata questo, diciamo, unione tra le donne del coordinamento cittadino di lotta per la casa e alcuni gruppi di femministe e lesbiche che appunto hanno organizzato questa occupazione insieme a loro. E che dire, le donne, qui siamo un centinaio, quindi sta andando piuttosto bene, il clima dentro i cancelli è allegro, siamo molto contenti, un bellissimo esperimento, è una bella esperienza. Sono donne quelle che verranno poi qui ad occupare, sperando che le lasciano qui, per lo più sole, con figli, con una vita appunto schiacciata tra produzione e riproduzione, quindi insomma è chiaramente è stato intercettato un bisogno piuttosto ampio. Molte vengono fuori anche da storie di violenza, quindi non hanno per fortuna più vicino a loro i compagni e sono sole. Per cui insomma questo più o meno è il gruppo di donne che rimarrà qui ad abitare. Poi c'è tutto un progetto più appunto sociale, che poi nelle prossime settimane verrà raccontato anche dalla radio, ovviamente articolato un po' meglio. C'è un'assemblea domani o oggi pomeriggio, ve lo faremo sapere. Intanto oggi pomeriggio c'è un invito, ovviamente da adesso in poi, a tutte le compagne che ascoltano a venirci a trovare. E ci sarà quindi anche un'assemblea oggi pomeriggio, domani probabilmente un'assemblea cittadina a cui sono invitate ovviamente tutte le donne femministe e le lesbiche. Ora al momento, per la verità, la situazione è che siamo barricate dentro questa scuola, che è uno spazio piuttosto grande, anche con un bel prato intorno, insomma lo spazio è bello, però ecco, fuori è pieno di vigili ed è arrivata anche adesso la polizia, per cui niente, adesso sono quei momenti, come dire, di tentativo di trattative più o meno, stiamo aspettando un consigliere comunale, insomma stiamo un po' traccheggiando e temporeggiando, vediamo che succede. Diciamo che mi dicevi prima, insomma, che i vigili non sono stati, insomma, dei più della no, più simpatia. No, non sono stati, uno addirittura poi voleva entrare con la scusa di essere gay, insomma, cioè quindi siamo proprio non sanno bene. No, non tra le forze dell'ordine si è diffusa, diciamo, questa. Sono parecchie volanti, vogliono identificare le donne, però per ora rimangono fuori, ovviamente, insomma, c'è una sproporzione anche di forze consistente, insomma. Va bene, la quindi, nostra sì. intenzione ovviamente è di rimanere qui, quindi poi ci riaggiorneremo insomma anche nel pomeriggio, nel corso delle prossime ore, ma l'invito è senz'altro a venire qua e anche a vedere, perché c'è proprio un bel clima tra di noi, insomma, entusiasmo. Allora noi sì, lo rinnoviamo ancora l'invito a via dei Tordi 38 a Torre Maura. Ci si può andare col trenino Roma Pantano direzione Giardinetti, direzione è proprio la fermata Giardinetti. Sì, sì, esatto. Poi in via dei Tordi sta, insomma, lì vicino, vedrete probabilmente anche le volanti, ma passate davanti e vi faremo entrare. Appunto, oppure il 105 che è la fermata Torre Maura. Ci dicevi prima che non so se anche un'altra compagna voleva intervenire. Sì, guarda, al momento l'ho persa perché appunto siamo volevo farti parlare con proprio una di quelle che ha pensato anche il progetto più su l'aspetto sociale eccetera, però magari possiamo, vedo che sono tutte impegnate appunto coi vigili, magari possiamo anche riaggiornarci fra un po'. Va benissimo, perfetto. Va bene. Allora noi